I Kikuyu, quando non sono costretti, non usano seppellire i morti, ma li lasciano per terra alla mercé delle iene e degli avvoltoi. Quel costume mi era sempre piaciuto. Doveva essere bello, pensavo, restare all'aperto, sotto il sole e le stelle, e venir divorati e ridotti al nulla così, subito, completamente, senza sotterfugi, diventare tutt'uno con la natura, essere un elemento qualunque della terra. Durante l'epidemia di spagnola sentivo tutta la notte le iene aggirarsi per le Chambas. Spesso dopo trovavo un bruno teschio levigato nell'erba alta della foresta. Pareva una noce caduta sotto un albero o sulla pianura. Purtroppo è un costume incompatibile con le leggi della vita civile. Il governo aveva lottato per mutare le abitudini dei Kikuyu e insegnar loro a sotterrare i morti, ma ancora non si erano assuefatti all'idea. Kinangui, mi dissero, sarebbe stato sepolto. Trattandosi di un capo, i Kikuyu, pensai, per una volta avevano rinunciato al loro rito. Forse volevano celebrare una grande cerimonia fra la loro gente. Il giorno dopo mi recai in macchina da Goretti, pensando di trovare tutti i vecchi capi del paese e di assistere ad una grande celebrazione Kikuyu. Ma il funerale di Kinangui era passato in mano agli europei e al clero. Vi assistevano alcuni rappresentanti del governo, il commissario di zona e due funzionari di Nairobi. Soprattutto però dominava il clero. La pianura nel sole del pomeriggio brulicava delle loro tonache nere. Se tutti quei membri della missione francese, anglicana e scozzese avevano mirato a dare a Kikuyu la sensazione di essersi impossessati del capo defunto, di considerare Kinangui una loro proprietà, c'erano riusciti. Come avrebbe potuto Kinangui sbarazzarsi di tanta manifesta potenza? È un vecchio trucco della Chiesa. Per la prima volta vidi un vero stuolo di ragazzi missionari, indigeni convertiti, vestiti in abbigliamento semisacerdotale, qualunque fosse la loro funzione, giovani e grassi Kikuyu con le mani giunte e gli occhiali, come poco attraenti eunuchi. Anche i due figli cristiani di Kinangui, mettendo da parte per un giorno i loro contrasti religiosi, dovevano essere intervenuti, ma non li conoscevo. Erano anche alcuni dei vecchi capi, e fra essi Keoi, con cui parlai un poco di Kinangui. Per tutta la cerimonia, però, rimasero in disparte. Tutti intorno alla tomba di Kinangui, scavata sotto due alti alberi di eucaliptus, avevano teso una corda. Io arrivai presto e rimasi là, accanto alla fune, da dove potevo vedere giungere sempre nuova gente e riunirsi là intorno come mosche. Kinangui fu portato su un camion ed è posto vicino alla tomba. Nulla mi ha mai sorpreso e terrorizzato più della vista della sua bara. Da vivo era un uomo alto e massiccio. Lo ricordavo quando veniva a piedi alla fattoria, fra i suoi senatori, e persino sul letto 2 sere prima. Ma la bara entro cui ora lo portavano era una cassetta quasi quadrata, certo non più lunga di 1,5 metri. Lì per lì la credetti addirittura una cassetta degli attrezzi per la sepoltura. Invece era la bara di Kinangui. Perché l'avevano scelta? Non l'ho mai saputo. Forse l'avevano pronta la missione scozzese. Ma come avevano potuto farvi entrare Kinangui? Come il suo corpo ci si adattava ora? La bara fu posata per terra accanto a me. Sul coperchio una grande tarca d'argento avvertiva, come mi spiegarono più tardi, che si trattava di un dono della missione al capo Kinangui. L'annuncio era seguito da un versetto della scrittura. Il servizio funebre durò a lungo. Uno dopo l'altro i missionari si fecero avanti per pronunciare i loro discorsi, discorsi, immagino, pieni di ammonimenti e di professioni religiose, ma io non sentii neanche una parola. Tenevo stretta la fune che cingeva la tomba di Kinangui. Alcuni indigeni cristiani li imitarono ed emisero i loro ragli sulla verde pianura. Finalmente Kinangui venne calato nella sua terra, coperto dalla sua terra. Avevo condotto al funerale alcuni dei ragazzi di fattoria, che si trattennero a parlare con amici e parenti. Sarebbero tornati a piedi. Farah e io ripartimmo in macchina da soli. Farah taceva come la tomba appena lasciata. Era stato un dolore per lui che non esaudisse il desiderio di Kinangui. Per 2 giorni, come un'anima in pena, aveva lottato fra grandi dubbi e profonde depressioni, ma giunto dinanzi alla porta di casa disse: "Non importa, Mem Sahib." Capitolo 3. La tomba sulle colline. Al ritorno da uno dei suoi safari, Dennis Finch Hatton s'era trattenuto un poco da noi, ma quando cominciai a smontare la casa e a fare i bagagli, non se la sentì di restare e se ne andò a vivere da Hugh Martin a Nairobi. Veniva ogni giorno in macchina a cenare con me. Agli ultimi tempi, mentre vendevo il mobilio, sedeva su una cassa. Un'altra cassa ci serviva da tavolo, ma restavamo insieme fino a tarda notte. Un paio di volte accennammo alla mia prossima partenza come ad una cosa reale. Anche lui considerava l'Africa come la sua patria, mi capiva e soffriva con me, pur sorridendo del mio dolore a separarmi dalla mia gente. Non puoi vivere senza Sirunga? Diceva scherzando. No, rispondevo. Ma il più delle volte ci comportavamo come se il futuro non esistesse. Mai in vita sua aveva voluto preoccuparsene. Pareva conscio di poter ricorrere a forze a noi ignote, se voleva, e questo, naturalmente, coincideva con la mia segreta volontà di lasciare le cose a loro stesse, di non curarmi di ciò che la gente diceva o pensava. Con lui, sedersi su una cassa da imballaggio in una casa vuota sembrava la cosa più naturale e cara del mondo. Mi recitava una poesia: devi mutare il tuo canto luttuoso in un ritmo gaio. Non verrò mai per pietà, ma per piacere. In quelle settimane andavamo a fare brevi voli sulle colline del Ngong o sulla riserva di caccia. Una mattina venne a prendermi prestissimo all'alba. A sud delle colline, sulla pianura, scorgemmo un leone. Aveva il proposito di raccogliere i suoi libri, rimasti per tanti anni a casa mia, ma non lo mise mai in atto. Tienili tu, finì per dire. Ora non saprei dove metterli. Non poteva decidere dove andare quando la mia casa sarebbe stata chiusa. Una volta, dando ascolto ai consigli insistenti di un amico, si recò fino a Nairobi per vedere i bungalows in affitto, ma tornò disgustato. A cena, prese a descrivermi le case e i mobili, si interruppe a metà, incapace di aprir più bocca, un'espressione di ripugnanza e di tristezza a lui insolita. Accostatosi a un genere di esistenza di cui la sola idea gli riusciva insopportabile, aveva perso anche la voglia di parlare. Ma si trattava di una disapprovazione del tutto oggettiva e impersonale. Si era scordato persino del suo progetto di vivere a quel modo anche lui. Quando glielo feci osservare, mi interruppe. Oh, per me, disse, sarò perfettamente felice in una tenda nella riserva Masai o prenderò una casa nel villaggio somalo. Parlò del mio futuro in Europa, cosa che non aveva fatto mai. Chissà se non sarei stata più felice che alla fattoria, in una civiltà ben diversa da quella che stava per invadere l'Africa. Sai, proseguì, questo continente ha un fortissimo senso di sarcasmo. Possedeva un pezzo di terra sulla costa, 45 km a nord di Mombasa, sulla baia di Takaunga, dove sorgevano le rovine di un'antica colonia araba, con un piccolo, umile minareto e un pozzo, un'escrescenza sbiadita di pietra grigia sul suolo salino. Nel mezzo, pochi vecchi alberi di mango. Là, Dennis s'era costruito una casetta nella quale avevo anche abitato. Intorno si apriva lo scenario di una marina grandiosa, nitida, divina, sterile, davanti all'azzurro oceano indiano. A sud, la profonda baia di Takaunga e la lunga, scoscesa e ininterrotta linea costiera, di roccia corallifera, grigio, pallido e gialla a perdita d'occhio. Durante la bassa marea si poteva camminare per chilometri sulla sabbia, come su un'enorme piazza dal pavimento irregolare, raccogliendo stelle marine e strane conchiglie appuntite. I pescatori swahili, con un cencio legato alle reni e un turbante rosso o azzurro come Sinbad, il marinaio resuscitato, andavano vendendo pesci multicolori pieni di aculei, di cui alcuni di sapore squisito. La costa, sotto la casa, era tutta sforacchiata di caverne e grotte profonde, dove si poteva sedere all'ombra a guardare l'acqua azzurra scintillante in lontananza. Con l'alta marea, l'acqua riempiva le grotte giungendo fino al livello della casa, nella porosa roccia corallifera. Il mare cantava e sospirava in modo strano, come se la terra sotto di noi fosse viva. Le lunghe ondate si lanciavano nella baia come un esercito all'assalto. Trascorsi qualche giorno a Takaunga durante la luna piena, la bellezza delle notti radiose e quiete era così perfetta da spezzare il cuore. Si dormiva con la porta aperta sul mare argentato, la tiepida brezza giocherellona soffiava con un basso mormorio, lievi folate di sabbia sul pavimento di pietra. Una notte un gruppo di Daus arabi passò lungo la costa, correndo silenziosamente davanti al monsone. Parevano una fila di ombre di vele brune sotto la luna. A volte Dennis pensava di fare di Takaunga il suo rifugio. Ne sarebbe partito solo per i safari. Quando mi trovai nella necessità di vendere la fattoria, mi offrì la sua casa laggiù, come io gli avevo offerto la mia, sugli altipiani. Ma per i bianchi è impossibile vivere a lungo sulla costa se non posseggono le massime comodità. Takaunga era troppo in basso e troppo calda per me. L'anno in cui lasciai l'Africa, a maggio, Dennis si recò a Takaunga per una settimana con l'aeroplano. Pensava di costruire una casa più grande e di piantarci intorno degli alberi di mango. Aveva intenzione di sorvolare voi al ritorno per vedere se vi fossero elefanti. Gli indigeni gli avevano parlato di un branco di elefanti venuti dall'ovest e soprattutto di un grosso maschio, grande due volte gli altri, che vagabondava nel folto da solo. Dennis, che amava considerarsi una persona eccezionalmente razionale, cadeva a volte in preda a strane depressioni, quasi torturato da presagi capaci di renderlo silenzioso per giorni o addirittura per un'intera settimana. Pareva non rendersene conto. Se gli chiedevo che avesse, si meravigliava. Gli ultimi giorni prima di partire per la costa era proprio così, sprofondato in chissà quali contemplazioni, ma quando glielo dissi mi prese in giro. Gli chiesi di condurmi con lui, sarebbe stato bello vedere il mare. Prima accettò, ma poi cambiò idea. Il viaggio intorno a voi, mi disse, sarebbe stato molto duro, poteva trovarsi costretto ad atterrare e a dormire nel bosco. Doveva farsi accompagnare da un indigeno. Gli ricordai la sua promessa di farmi fare un viaggio su tutta l'Africa con l'aereo. Sì, rispose, avevo ragione, e se a voi c'erano davvero gli elefanti, mi avrebbe condotto a vederli appena saputo dove si poteva atterrare e piantare le tende. Fu l'unica volta che rifiutò di portarmi con sé in aeroplano. Partì l'8 maggio, venerdì. Aspettami giovedì, disse salutandomi, tornerò in tempo per il pranzo. Era già quasi scomparso con la macchina dietro la curva del viale per recarsi all'aeroporto di Nairobi, quando tornò indietro per cercare un libro di poesie che mi aveva dato e che ora voleva portare con sé nel viaggio. Si fermò con un piede sul predellino della macchina e un dito nel libro a leggermi una poesia di cui avevamo parlato. Ecco le tue oche grigie, disse. Vidi oche grigie sorvolare la pianura, oche selvatiche, vibranti, in alto, nel cielo. In volo fermo, da orizzonte a orizzonte, l'anima diritta e rigida nel petto, il loro grigio biancore solcava come un nastro l'immensità dei cieli, i raggi del sole frastagliavano le colline grinzose. Poi se ne andò per sempre, salutandomi con il braccio. Atterrando a Mombasa, l'aeroplano si ruppe un'elica e Dennis telegrafò a Nairobi per avere i pezzi di ricambio. La compagnia aerea dell'Africa orientale inviò allora un indigeno a portarglieli. Riparato l'aereo, Dennis, prima di salire, invitò l'indigeno ad accompagnarlo, ma il ragazzo non volle. Aveva volato altre volte prima di allora, anche con Dennis, e Dennis era un esperto pilota famosissimo tra gli indigeni. Quel giorno però il ragazzo non volle accompagnarlo. Molto tempo dopo incontrò Farah a Nairobi e gli raccontò l'episodio. Non ci sarei andato nemmeno per 100 rupie con Buana Bedar quella volta, disse. L'ombra del destino, intravista anche da Dennis negli ultimi giorni al Gong, era apparsa all'indigeno con estrema chiarezza. Dennis allora si fece accompagnare da Kamau, il suo giovane domestico. Il povero Kamau aveva terrore di volare. Quando l'apparecchio prendeva quota, mi confessò una volta, si fissava i piedi per tutto il tempo finché non era di nuovo a terra, tanto spavento provava solo a lanciare un'occhiata da quell'altezza. Il giovedì attesi il ritorno di Dennis, calcolai che sarebbe partito dal voi all'alba e in 2 ore sarebbe giunto al Gong. Ma non vedendolo arrivare, mi ricordai di alcune faccende da sbrigare a Nairobi e mi recai in macchina in città. Ogni volta che sono stata male ho avuto delle preoccupazioni in Africa, ho sofferto di una strana idea che non potevo scacciare. Avevo la sensazione in questi casi che tutto intorno a me fosse in pericolo o in pena e che nel dramma io mi trovassi, chissà come, dalla parte sbagliata e venissi quindi guardata con diffidenza e paura da tutti. L'incubo in realtà aveva avuto origine durante la guerra. Per un paio d'anni, allora, la gente della colonia, ritenendomi segretamente filo tedesca, mi aveva guardata con diffidenza. Questo perché, nella mia innocenza, poco prima dello scoppio delle ostilità, mi ero recata a Naivasha a comprare cavalli per il generale Folletto dell'Africa orientale tedesca. 6 mesi prima, giungendo in Africa sulla mia stessa nave, mi aveva chiesto di comprargli 10 cavalli abissine da allevamento. Ma i primi tempi, troppo occupata in altre faccende, avevo dimenticato la mia promessa. Solo più tardi, dietro le sue lettere, mi decisi ad accontentarlo. Poco dopo scoppiò la guerra e le cavalle non lasciarono mai l'Africa. Ma l'episodio gettò un'ombra su di me. Si diceva che allo scoppio della guerra io compravo cavalli per l'esercito tedesco. I sospetti però scomparvero quando mio fratello, volontario nell'esercito inglese, ottenne la croce della regina Vittoria nell'assalto di Amiens a nord di Rouen. L'avvenimento fu annunziato perfino nello East African Standard sotto il titolo Croce della regina Vittoria in Africa orientale. Lì per lì il mio isolamento non mi turbò. Non essendo affatto filo tedesca, pensavo che se necessario mi sarebbe stato facile chiarire la situazione. Invece dovevo essere stata scossa più profondamente di quel che non credessi. Per anni, in seguito, quando ero molto stanca o avevo la febbre alta, la sensazione tornava. Gli ultimi mesi, trascorsi in Africa, quando tutto stava crollando, sentivo a volte piombare sopra di me un buio che mi spaventava, una specie di disordine mentale. Quel giovedì, a Nairobi, l'incubo mi ridiscese addosso di colpo, tanto forte da farmi dubitare per la mia ragione. Scorgevo, chissà come, una tristezza profonda nella città e nella gente, eppure tutti si allontanavano da me, nessuno si fermava a parlarmi. I miei amici, al vedermi, salivano in macchina e se ne andavano. Perfino il vecchio signor Duncan, il droghiere scozzese da cui mi ero servita per anni e con cui avevo ballato a una grande festa nel palazzo del governo, quando entrai mi guardò con un'ombra di panico e uscì dal negozio. Cominciai a sentirmi sola, come su un'isola deserta. Farah era rimasto alla fattoria per ricevere Dennis e non avevo nessuno con cui parlare. In questi casi che cui non servono, la loro visione della realtà, la loro realtà stessa è diversa dalla nostra. Dovevo far colazione con Lady Macmillan a Kiromo e pensai che lì, incontrando dei bianchi con cui parlare, avrei ritrovato il mio equilibrio. Quando giunsi con la macchina in fondo al lungo viale di bambù, davanti alla bella casa antica di Kiromo a Nairobi, vidi che c'era altra gente a pranzo. Ebbi di nuovo la sensazione provata per le strade della città. Tutti parevano mortalmente tristi e al mio arrivo smisero di parlare. Sedetti accanto al mio vecchio amico Balpet, evidentemente abbattuto e in animo taciturno. Cercando di liberarmi dall'ombra che ormai incombeva pesante su di me, provai a parlargli delle sue scalate sulle montagne del Messico, ma sembrava gli fossero uscite di memoria. Pensai, questa gente non fa per me, torno alla fattoria. A quest'ora Dennis sarà arrivato, parleremo e agiremo da persone sagge. E io rinsavirò e tutto mi sarà chiaro e semplice. Ma, finito il pranzo, Lady Macmillan mi invitò ad accompagnarla nel suo salottino. A voi c'era stato un incidente, disse. L'apparecchio di Dennis era precipitato. Dennis era rimasto ucciso sul colpo. Ecco, non avevo errato. Il nome di Dennis spalancava le porte della verità. Ora sapevo tutto, capivo tutto. Più tardi, dal commissario del distretto di Voi appresi i particolari dell'incidente. Dennis, trascorsa la notte da lui, era partito dall'aeroporto la mattina insieme al ragazzo che l'accompagnava diretto alla mia fattoria. Appena presa quota, aveva girato per tornare indietro, volando basso a 60 metri. Improvvisamente l'aereo aveva cominciato a oscillare, poi, ruotando su se stesso, era piombato verso terra come un uccello. Nell'urto aveva preso fuoco. La gente accorsa era stata arrestata dalle fiamme. Spento finalmente l'incendio con rami e terra, avevano scoperto l'aeroplano sfracellato e Denis e il ragazzo morti. Anni in seguito la colonia soffrì della morte di Denis come di una perdita irreparabile. Nell'immagine creata dal ricordo, molti rivelarono un sentimento bellissimo, un rispetto per valori a loro estranei. Ammiravano le sue doti di atleta, la sua bravura nel golf e nel cricket, ignote anche per me. Solo allora conobbi la sua grande fama in tutti gli sport. Ultimo, dopo tante lodi, giungeva il riconoscimento della sua intelligenza. Soprattutto di lui ricordavano l'assoluta mancanza di timidezza, il suo altruismo, una sincerità incondizionata possibile solo in lui o nei folli. Qualità che in colonia non sono considerate degne di imitazione in un vivo, ma possono essere ammirate più sinceramente che altrove in un morto. Gli indigeni avevano conosciuto Denis meglio dei bianchi. Perderlo per loro fu come perdere un parente. Quando a Nairobi ebbi la notizia della sua morte, cercai di raggiungere voi. La compagnia aerea mandava Tom Black per fare un rapporto. Io mi recai in macchina all'aeroporto per chiedergli di condurmi con lui, ma al mio arrivo il suo aeroplano era già in volo verso voi. Avrei potuto seguirlo in macchina, ma essendo la stagione delle grandi piogge, non sapevo quali strade fossero praticabili. Mentre aspettavo informazioni precise, ricordai che Denis aveva sempre sognato di essere sepolto sulle colline del Gong. Stranamente non ci avevo pensato prima. In realtà, solo in quel momento mi rendevo conto che avrebbero dovuto seppellirlo. Era come se mi avessero mostrato una fotografia. Io stessa, quando ancora speravo di trascorrere il resto dei miei giorni in Africa, avevo indicato a Denis un angolo sulla prima cresta della riserva di caccia dove avrei voluto essere sepolta. Una sera, mentre dalla finestra guardavamo le colline, disse che anche la sua tomba doveva essere là. Da allora, ogni tanto, quando ci recavamo in macchina sulle colline, diceva: "Arriviamo fino alle nostre tombe". Un pomeriggio, mentre andavamo a caccia di bufali sulle colline, ci spingemmo a piedi fino al pendio per contemplarlo più da vicino. La vista era sconfinata. Nella luce del tramonto scorgevamo dal Monte Kenya al Kilimangiaro. Mangiando un'arancia sdraiato sull'erba, Denis disse che gli sarebbe piaciuto riposare là. La mia sepoltura si trovava un po' più in alto. Da entrambi i punti si scorgeva in lontananza la mia casa, nel bosco a oriente. Ogni giorno, per l'eternità, saremmo tornati lì, pensai in quell'istante, malgrado la ben nota teoria che tutti devono morire. Saputo della morte di Denis, Gustav Mohr venne alla fattoria. Non trovandomi, mi cercò a Nairobi. Poco dopo ci raggiunse anche Hugh Martin. Dissi loro del desiderio di Denis e della tomba che avevamo scelto sulle colline. Telegrafarono a voi. Prima che tornassi alla fattoria mi dissero che il corpo di Denis sarebbe stato portato col treno la mattina dopo perché si potesse fare il funerale sulle colline a mezzogiorno. Per quell'ora la tomba doveva essere pronta. Gustav Mohr mi accompagnò alla fattoria e passò la notte là per potermi aiutare la mattina dopo. Dovevamo recarci sulle colline prima dell'alba per scegliere il punto e far scavare la fossa in tempo. Piove tutta la notte. La mattina, quando uscimmo, cadeva ancora una querugiola sottile. I solchi dei carri sulla strada erano colmi d'acqua. A salire su per la collina con la macchina pareva di viaggiare dentro le nuvole. Non vedevamo la pianura in basso, alla nostra sinistra, né i pendii e i picchi delle colline alla nostra destra. Gli indigeni venuti con l'autocarro non si scorgevano a 10 metri di distanza. Più la strada saliva e più la nebbia diventava fitta. Un cartello ci avvertì che eravamo entrati nella riserva di caccia e dopo qualche centinaio di metri scendemmo. Lasciamo l'autocarro agli indigeni sulla strada principale per cercare il posto adatto. L'aria della mattina era tanto fredda che faceva dolere le dita. La tomba non doveva essere troppo lontana dalla strada maestra, né in un punto troppo ripido per raggiungerlo con l'autocarro. Percorremmo un breve tratto insieme, parlando nella nebbia, poi ci separammo e ognuno andò in una direzione diversa. Dopo qualche istante eravamo completamente invisibili l'uno all'altro. La grande regione delle colline si apriva riluttante dinanzi a me per rinchiudersi subito alle mie spalle. Era come un giorno di pioggia in un paese del nord. Farah mi camminava accanto, portando il fucile tutto bagnato, pensava che potessimo incontrare i bufali. Le cose ci sbucavano dinanzi all'improvviso, vicinissime. Sembravano fantasticamente grandi. Le foglie dei grigi cespugli di olive selvatiche e l'erba alta, più alta di noi, stillavano umidità emanando un forte profumo. Malgrado l'impermeabile e gli stivali di gomma, in breve tempo mi trovai tutta fradicia, come se avessi traversato un ruscello aguado. Regnava una gran quiete là, sulle colline. Solo ogni tanto, quando la pioggia era più forte, si sentiva tutto intorno un sussurro. La nebbia, a un certo punto, si diradò. Scorsi davanti a me, per un gran tratto, una chiazza blu indaco che pareva Ardesia, forse uno degli alti picchi lontani. Ma dopo un istante era scomparsa di nuovo dietro il sipario della nebbia e della pioggia grigia. Camminai e camminai e alla fine rimasi completamente immobile. Non c'era niente da fare, bisognava che l'aria si schiarisse. Gustav Mohr mi chiamò 3 o 4 volte per riuscire a capire dove mi trovavo. Finalmente si avvicinò, il viso e le mani bagnate di pioggia. Avevamo vagato nella nebbia per un'ora, disse, e se non sceglievamo subito il posto per la tomba, non avremmo potuto prepararla in tempo. Ma non si vede nulla, risposi. Non possiamo seppellirlo in un punto chiuso in mezzo alle montagne. Aspettiamo ancora un momento. Restammo in silenzio nell'erba alta. Mi accesi una sigaretta e nell'istante in cui la gettai via, la nebbia cominciò a diradarsi. Un chiarore pallido e freddo filtrò nel mondo. Di lì a 10 minuti fummo in grado di scorgere dove ci trovavamo. Sotto di noi si stendevano le pianure e si poteva distinguere la strada per cui eravamo venuti. Serpeggiava su per i pendii, saliva fino a noi e proseguiva, sempre serpeggiando verso la cima. Lontano, a sud, sotto le nubi cangianti, si aprivano le colline ininterrotte, azzurro cupo, ai piedi del Kilimangiaro. Mentre ci volgevamo a nord, la luce si fece più chiara. Pallidi raggi apparvero obliqui nel cielo. Una striscia d'argento scintillante si posò sulla spalla del Monte Kenya. D'un tratto, vicinissimo a oriente sotto di noi, scorgemmo un piccolo punto rosso in mezzo a tutto quel verde, l'unico tocco di rosso all'orizzonte, il tetto di tegole della mia casa. Non occorreva spingersi oltre, quello era il punto. Poco dopo ricominciò a piovere. Una ventina di metri più in là la collina formava una stretta terrazza naturale. Lì segnammo l'area per la tomba in modo che guardasse da oriente a occidente. Chiamammo gli indigeni perché tagliassero l'erba con le pangas e scavassero la fossa nel terreno bagnato. Mohr si fece aiutare da alcuni di essi ad aprire un sentiero per l'autocarro, livellarono il terreno e lo coprirono con dei rami perché le ruote non scivolassero sul fango. Ma non fu possibile far giungere il viottolo fino alla tomba a motivo dell'ultimo tratto di salita troppo ripido. Quando gli indigeni cominciarono a lavorare e il silenzio, regnato fino a quell'istante, fu rotto, mi accorsi che le colline avevano l'eco. Rispondevano ai colpi delle vanghe come un cagnolino che abbaia. Giunsero alcune automobili da Nairobi e mandammo un ragazzo a indicare loro la strada, altrimenti non sarebbero riusciti lassù a scorgere il nostro gruppetto seminascosto fra i cespugli accanto alla tomba. Giunsero anche diversi somali di Nairobi, lasciati carrozzelle e muli sulla strada maestra, salirono a piedi lentamente, a 3 o 4 per volta. Esprimevano il dolore secondo il costume del loro popolo, atteggiandosi come chi voglia celare il capo e quasi fuggire lontano dalla vita. Amici di Denis, informati della sua morte, giunsero in macchina da Naivasha, Gilgil e del Menteita. Le automobili erano tutte coperte di fango dopo il lungo viaggio. Ora, sotto la luce più chiara, si scorgevano le quattro vette delle colline ergersi alte sopra di noi, contro il cielo.